Non seguì alcun commento. Il silenzio durò a lungo. Anche Aristonico tardò a rivolgere ancora una volta l'invito. Le prime file guardavano verso di noi fissamente, senza batter ciglio. Solo Focione sembrava impaziente, gli occhi gli scintillavano, era come se volesse chiedere la parola. Iperide cercò i miei occhi e finalmente rasserenato. Un uomo calvo, magro, la barba nera, si alzò e lentamente prese a scendere la scalinata. Aveva un'andatura disordinata e scomposta. Ci mise un'eternità per raggiungere la tribuna. Riconobbi i suoi occhi neri. Il mio cuore prese a battere precipitosamente. Abbrancai spaventata a un braccio di Iperide, mentre l'uomo saliva i 3 gradini della tribuna. Sono Firomaco, figlio di Stinfalo, del demo del Pireo. La sua voce nasale non era debole come quando lo conobbi, ma grave. Per chi non mi conosce ancora, sono l'ispettore del Pireo che controlla e assegna la destinazione degli schiavi comprati dalla nostra città. Ho riflettuto a lungo se venire o meno qui a offrire il mio parere, ma l'ultimo intervento è stato decisivo. Il copista di Demostene, oggi qui in veste di segretario logografo di Iperide, giustamente invocava la presenza di Platone o di Aristotele, che avrebbero potuto chiarire meglio di chiunque altro la misura degli schiavi. Quasi non osavo guardare in faccia gli ateniesi assiepati sulle gradinate della Panice. Ma questo luogo è stato circoscritto con il sangue degli animali immolati questa mattina e offerti agli dèi. Ci siamo imposti la sacralità di questa riunione ed io ero seduto proprio lì sopra. Ero l'ultimo della fila e per tutta la durata dell'assemblea l'odore del sangue sacro sotto i miei piedi mi ha tenuto alla mente lucida e attenta. Quello che sto per rivelarvi adesso è grave, gravissimo. Mi lanciò un'occhiata torva. La mia conoscenza degli schiavi deriva dall'esperienza di oltre 15 anni di lavoro. Molti anni fa si prendeva alla leggera l'assegnazione degli schiavi. Per i nostri avi erano tutti uguali, era tutto bestiame umano. E il contingente di opliti e arcerisciti destinati al controllo degli schiavi che lavoravano nelle miniere dell'Aurio era piccolo. Sapete tutti com'è andato a finire. Gli schiavi si ribellarono, uccisero i pochi soldati che li controllavano e fuggirono, seminando morte e terrore per le campagne. Pensate, oltre 20.000 belve assetate di vendette e di sangue. È importante non dimenticare questo pezzo della nostra storia. Credo che dobbiamo essere molto prudenti e pensarci non una, ma 100.000 volte prima di consegnare una spada o un arco e freccia a uno schiavo. Perché uno schiavo, inferiore o no a noi per natura o per tradizione, nutre verso noi cittadini liberi, verso i suoi padroni, risentimento, rabbia, fino all'odio. Questo sì che è naturale, ateniesi. Noi al loro posto la penseremo allo stesso modo. Perciò adesso non si tratta di decidere se armare o meno un grande esercito che possa spaventare il gigante persiano Macedone. La proposta di Peride è di natura strettamente militare. È giusto che l'abbia fatta, gli siamo grati. Sappiamo che darebbe la vita per noi, per la sua città. Ma Iperide non si è presentato qui da solo. Ha fatto sedere accanto a sé e ha invitato a mettersi in testa la corona di mirto. Ha spinto a parlare anche questo giovane, che invece ha fatto capire chiaramente che al di là del pericolo militare vero e proprio, esiste un problema di fondo, un problema filosofico, etico e religioso. La schiavitù. È questa faccenda che deve essere abolita, cancellata con un'alzata di mano, con un sasso nero o bianco. Si girò verso di me. Ora i suoi occhi neri erano spietati. In questo clima di grandi cambiamenti e di grandi incertezze economiche, forse si finisce per perdere di vista i punti fermi. Ma non possiamo permetterci di smantellare le fondamenta della nostra società da un giorno all'altro. Questo sì che potrebbe portare alla nostra fine. Questo sì che potrebbe creare uno stato di tale incertezza, io dico debolezza, che uno dei due giganti potrebbe approfittarne e cancellarci dall'Attica e da tutta l'Ellade. Non a caso i filosofi dell'Accademia, pur essendo quasi tutti filomacedoni, Firomaco si accorse dell'espressione severa sui volti delle prime file. Mi dispiace di dover essere io, un umile ispettore addetto al controllo degli schiavi, a pronunciare pubblicamente, forse per la prima volta, quello che anche i muri sanno in questa città. Soprattutto da quando è arrivato Aristotele nell'Accademia di Platone si respira chiaramente un'aria a favore di Filippo. È la verità. È È una simpatia culturale, non politica, dicono, ma è un po' difficile credergli. Molto più semplicemente, essi vorrebbero una situazione stabile e sicura per potersi dedicare serenamente alle loro classifiche, mentre la situazione di questi ultimi anni in Atene non li fa sentire tranquilli. Ma non è di questo che volevo parlarvi. Volevo solo dire che persino loro, i filosofi filo-macedoni dell'Accademia, non pensano minimamente a smantellare le fondamenta di questa società. Sono convinti assertori che la schiavitù sia voluta addirittura dalla natura e dagli dei. Platone e Aristotele saranno anche filomacedoni, ma non certamente stolti. Come invece rischieremmo di essere noi se dovessimo approvare la proposta di Iperide. Sembrava aver concluso. Stava quasi per togliersi la corona dalla testa quando ci ripensò. Gettò un'occhiata significativa ad Aristonico e proseguì. Vi dicevo che vi avrei rivelato un fatto grave. In questa città si respira un clima in cui potrebbero nascere e svilupparsi complotti politici inimmaginabili. Combattere un gigante perché si è raggiunto un accordo con l'altro o viceversa. Oggi potrebbe accadere di tutto. Per questo dobbiamo stare molto attenti. Io ho sbagliato. Così come ha fatto Iperide oggi. Io chiedo la vostra comprensione per me e per Iperide, il vostro perdono. Tutti e due daremo la vita per voi ateniesi. Dobbiamo però confessarvi un errore commesso. Qualche mese fa, al Pireo, giunse una nave con un carico di schiavi da Corinto. Fra di essi c'era una ragazza di 18 anni, marchiata a fuoco sul braccio sinistro, svelta di mente e di favella. Assiotea di Fliunte. Avrei dovuto mandarla alle miniere dell'Aurio, ma sapevo che Demostene cercava una copista in gamba e l'assegnai all'asta dell'Agorà in cui Demostene la comprò per 1500 dracme. Così dicendo, si avvicinò a me. Cercò di scoprirmi il braccio. Iperide provò a impedirlo, ma ci ripensò. Respirando affannosamente, si rimise a sedere. Evitai che fosse Firomaco a scoprire il mio braccio sinistro. Lo feci io, mordendomi le labbra. Lui m'afferrò la mano, mostrando il marchio all'assemblea. Non solo è schiava, schiava pericolosa perché ha tentato di fuggire, ma è anche donna. Scuoteva il capo mentre prese a levarsi un clamore sordo, sguardi infuriati, grida oscene. Gli arcerisciti misero le frecce nei loro archi. Aristonico chiese la calma. Faticò, ma riuscì a ottenerla. Firomaco lasciò la mia mano. Torna a chiedere il vostro perdono per me e per Iperide. Sono certo che ognuno di noi due ha agito per il bene di voi ateniesi. Iperide, probabilmente, pensava che questa ragazza potesse influire positivamente nella vostra scelta, essendo lei una schiava. E forse aveva visto giusto a voi la decisione, amici ateniesi. A Iperide chiedo di capirmi. È stato l'odore del sangue di questo cerchio sacro che non mi ha permesso di tacere. Stava per sfilarsi la corona di mirto quando aggiunse: Vi consiglio di mandare questa ragazza alle miniere dell'Aurio. Non vorrei sbagliare una seconda volta. Nel clamore che subito si accese, Firomaco si avviò per risalire la gradinata con un'andatura più sciolta. Mi sentivo distrutta, non riuscivo nemmeno a piangere, provavo dolore per la causa persa. Le labbra di Iperide tremavano disperate. Per un attimo incrociai gli occhi di Focione, erano torvi, eppure in quel suo volto austero brillava un velo di comprensione, di dolore. Il presidente dell'assemblea mi fissò con occhi storti, prese la parola. Non so cosa fare, chiederei un parere all'arconte eponimo Callimaco, a Eubulo, visto che li abbiamo entrambi con noi, e prego l'assemblea di conservare la calma. Prima che l'arconte potesse alzarsi, Eubulo, nonostante la grossa corporatura, fece quasi uno scatto e raggiunse velocemente la tribuna. La corona di mirto si era inclinata sul capo stempiato. La sua faccia rosea era avvolta da vampe di fuoco. Molti anni fa, proprio qui, si svolse la battaglia finale contro le Amazzoni, che avevano invaso l'Attica per liberare la loro Assiotea, Antiope, rapita da Teseo. I nostri antenati vinsero una battaglia più importante delle Termopili e di Salamina, quella contro la donna, questa creatura inferiore a noi per natura. Girò la faccia rosea verso di me, puntandomi addosso i suoi occhi che avevano perso l'espressione mite. ma non per questo meno pericolosa. Se quel giorno le Amazzoni avessero trionfato, oggi non staremmo qui a discutere alcuna proposta di legge. Esse ci avrebbero sterminati, salvando solo qualcuno di noi, tenendolo in prigione, schiavo, usandolo per qualche accoppiamento per la riproduzione. Volsi il capo verso di noi, alla nostra destra, verso l'acropoli. Tutte le meraviglie che l'uomo ha creato per rendere omaggio alla vita e agli dèi, tutto questo non esisterebbe. Non ci sarebbero i teatri, i giochi olimpici, i misteri eleusini, le statue di Fidia, l'Iliade e l'Odissea. Non ci sarebbe stata la civiltà. Meglio, 100 volte meglio, perdere una guerra con i Macedoni o con i Persiani, ma non una battaglia come quella che si svolse qui qualche secolo fa. Ecco, dedichiamo il nostro voto democratico a quei nostri antenati che donarono la vita per sconfiggere le Amazzoni. Questa ragazza porta dentro di sé la pericolosità e il veleno di quella specie che ritenevamo estinta. Dando la libertà agli schiavi, la porgeremo innanzitutto alla donna. Questo potrebbe essere davvero l'inizio della fine. E tornò a incantare l'assemblea, attentissima alle sue parole, con i suoi occhi ridiventati miti che avevano assunto un'espressione particolarmente dolce. Propongo a voi ateniesi di votare subito l'ordine del giorno, la proposta di abolizione della schiavitù da parte del cittadino Iperide. Ormai abbiamo acquisito tutti i dati, sviscerando ogni problema. Abbiamo seriamente discusso tutte le sfaccettature e le implicazioni politiche, economiche e sociali. Gli dèi saranno soddisfatti di questo cerchio di sangue. Votiamo per alzata di mano, ateniesi. Chi vuole abolire la schiavitù e dare la cittadinanza a meteci e schiavi, alzi la mano. Solo Iperide alzò la sua, rabbiosa. Tutto il resto dell'assemblea stette immobile, silenziosa. La voce reboante di Eubulo tornò a farsi sentire. Chi non vuole abolire la schiavitù? Chi non vuol dare la cittadinanza a meteci e schiavi, alzi la mano. Fu un'esplosione di mani rabbiose. Non c'era un solo vuoto, compreso le prime file. Solo Focione tenne le sue braccia incrociate, lo sguardo furibondo, e cercava i miei occhi. Il faccione di Eubulo si aprì alla serenità. Questa votazione resterà agli atti. Prego i copisti e gli ufficiali incaricati di redigere il verbale dell'assemblea, di limitarsi a citare solo la proposta di Iperide e la votazione, avvenuta a seguito di un'intera giornata di dibattito. Nonostante Dioniso fosse in trepida attesa che aprissimo le botti di vino in suo onore. E cercò con gli occhi il gruppetto di uomini all'altra parte della tribuna, intenti a scrivere sulle tavolette di cera. Assolta questa formalità, posso anche cominciare a togliermi la corona di mirto. Quello che faremo e diremo adesso resterà comunque scritto nella nostra mente e ci serva da lezione. Il suo sguardo brillava di arguzia. Mi associo a Firomaco. Iperide si è perdonato. Ha mentito per una causa che lui pensava nobile. Ha nascosto due cose di questa tale Assiotea di Fliunte, la sua condizione di schiava e il suo sesso. Questo cerchio di sangue è stato offeso. Propongo di fare subito un sacrificio a Dioniso, visto che fra qualche ora comincerà la sua festa. Ma propongo di perdonarlo comunque. È un uomo che ama troppo la sua città e si sa, a volte il troppo amore porta agli eccessi. Siete d'accordo con me, ateniesi? E sollevò un braccio grassoccio e fermo. Lentamente le mani presero a sollevarsi, timide, impacciate, poi sempre più decise. Alla fine la quasi totalità dell'assemblea si unì a quella di Eubulo. Sono felice del vostro voto, anche perché può essere utile a trovare accordi futuri, soprattutto con Iperide e Demostene. Io sono il capo del partito della pace, loro della guerra, ma abbiamo lo stesso interesse. E dobbiamo sforzarci di camminare assieme per il bene comune degli ateniesi. A questo punto intervenne Aristonico, che invitò i pretani a considerare l'assemblea ufficialmente chiusa. Il gruppo, seduto sulla sinistra della tribuna, assieme ai copisti e ispettori, confabulò brevemente. E uno di loro si alzò e a voce alta pronunciò le parole rituali che ponevano fine all'assemblea. Gli occhi di Ubulo si volsero allora verso di me. Per ultimo resta l'oratrice schiava e il flaccido volto si incupì. Quali forme può assumere il pericolo? Permettetemi, Ateniesi, di prenderla da sola assieme all'arconte eponimo Callimaco questa decisione. L'oratrice schiava Siotea di Friunte verrà da questo momento presa in consegna dagli arcieri, portata nella prigione che ospitò Socrate qui sopra. La prossima nave in partenza per il Sunio la condurrà alle miniere dell'Aurio, per farsi perdonare d'aver offeso gli ateniesi con le sue menzogne da teatrante consumata. E si volse verso Callimaco per avere la sua approvazione. L'arconte gli rispose, sollevando le braccia, il volto aperto. Naturalmente non verrà concesso né a Iperide né a Demostene di poterla riscattare. Subito dopo vennero impartiti gli ordini. Lo stendardo della città fu abbassato fino a raggiungere il suolo, mentre dalle gradinate della Penice prendeva a salire un vocio sempre più potente, stridore, urla, risate oscene. Giunsero quattro arcieri sciti con le armature di cuoio, armati fino ai denti. Stavano per afferrarmi e trascinarmi quando io mi tolsi la parrucca e la gettai ai loro piedi. Poi mi sfilai gli stivali, rimasi scalza. Infine mi tolsi il chitone, restando solo con il piccolo imatio che avevo indossato sotto per coprire il mio marchio. Uno degli arcieri mi regò le mani dietro la schiena, un altro mi infilò al collo un collare di ferro a cui era attaccata una catena. Mi trascinarono via, accompagnata dal clamore lacerante che mi pioveva addosso dall'assemblea. Incrociai gli occhi supplici di Peride, distolsi i miei. Non volevo che vi leggesse la mia disperazione. La prima fila dell'emiciclo era quasi tutta intenta a discutere animatamente. Mentre abbandonavamo la Pnice, due uomini portarono un agnellino in braccio per il sacrificio. Un animale innocente che stava per essere scannato sull'altare per causa mia. Risalimmo la collina. Non ero abituata a camminare scalza, mi ferii, sanguinavo, ma era quel collare che mi faceva salire il pianto agli occhi. Ricacciavo in gola le lacrime, non volevo impietosire nessuno. Fu accanto al tempio di Eracle che mi accorsi del vecchio che ci osservava da un piccolo carro che aveva fermato per farci passare. Anche Ofione mi riconobbe e i suoi occhi spiritati si serrarono di colpo, protese le grosse mani verso di me. Il suo vocione risuonò fra i cipressi. Resisti, Assiotea, non sei sola in questo mondo. Resisti, creatura mia. Levò le mani al cielo, a quel cielo senza dei, né speranza. L'arciere che teneva la catena di ferro mi strattonò, ma riuscì a gridare lo stesso verso il mio vecchio amico. Avverti Marpessa, ti prego, dille che continui lei a cercare il libro. Un altro strattone mi lasciò senza fiato, quasi mi strangolava. Dì a Marpessa che mi aspetti, diglielo, ti scongiuro. L'arciere mi trascinò con più violenza, strappandomi alla vista di Ofione. Tremavo per Marpessa, le sarei mancata molto. Nel nostro affetto lei aveva trovato il suo equilibrio. Mia Marpessa, con gli occhi imbevuti d'amore e di tragedia. Al crocicchio che affrontammo c'era un altro gruppo di arcieri. Stavano sistemando una botte di vino su un trespolo di ferro, attorniati da uomini intenti a preparare il fuoco per cuocere i tre maiali che avevano già preso a grugnire in modo straziante. Quando giungemmo alla prigione, mi sbatterono in una lurida cella impregnata di piscio e feci. Mi legarono con una catena al muro. Ero sola, ma l'antro poteva ospitare molti altri disgraziati come me. Mi accovacciai appoggiandomi con le spalle alla parete rocciosa. A quella stessa roccia, 50 anni prima, si era appoggiato anche Socrate la notte in cui dovette bere la cicuta. Oltre le sbarre di ferro, da un'ampia feritoia si intravedeva il Partenone illuminato dagli ultimi raggi del sole. Le striature dorate fendevano le nuvole purpuree, si incuneavano tra le colonne impregnate di cielo. Quella vista fu oscurata da un arciere dalla figura possente che aprì le sbarre di ferro. Entrò nella grotta dove mi trovavo. Era alto, aveva lunghi pantaloni rossi fino alle caviglie. Mi venne vicino, mi gettò ai piedi una lurida coperta. Mettetela addosso, se no a domani non ci arrivi. La sua voce risuonò sorda, sgarbata. Fissai quel volto spietato. Il labbro inferiore, mancante, gli lasciava scoperta una parte dei denti, una lunga cicatrice sino all'occhio. I capelli rossi, Chi era? Lo conoscevo. Quel berretto alto e nero a punta che ricadeva sulla sua nuca. Ma soprattutto il volto. Un volto così non si dimentica. Mi avvolsi nel panno puzzolente, mi coprì i piedi sanguinanti. Aggiunse con un tono stonato: Più tardi ammazziamo un maiale, te ne porto un pezzo. Ma non si decideva a lasciarmi sola. Cominciai ad aver paura. Fliunte. Era uno degli arcieri che accompagnavano il coro le flautiste, le aulettridi che avevano suonato per il ritorno degli eroi di Argo. Mi feci coraggio. Forse tu conosci la Stenia di Mantinea, una flautista rossa. Mi fissava con occhi quasi serrati, muovendo il capo con rapidi scatti. Tutte le flautiste sono rosse. Tu hai accompagnato l'Astenia e il resto del coro quasi 2 anni fa da Fliunte a Sicione, sull'Asopo, dopo i festeggiamenti degli eroi di Argo. Mi strinsi la coperta attorno al collo, tremavo per il freddo e la paura, una specie di ghigno negli occhi. Non si scorda una faccia come la mia, e annuiva piccoli scatti con il capo. Mi ricordo. L'Astenia, certo, una bella flautista. Fece per girarsi e andarsene. Aspetta, per favore, la conosci? Un guizzo del capo, gli occhi obliqui. Posso anche conoscerla, perché? Se hai la possibilità di vederla, per favore, se puoi parlare con lei, raccontale di me, dille che mi hanno mandato all'aureo, per favore. Mi mordevo le labbra, terrorizzata dal suo aspetto. Perché dovrei farlo? Fece un passo verso l'inferriata. Non lo so, forse per lo stesso motivo per cui mi hai portato questa coperta. E mi veniva da piangere. Forse per la stessa ragione per cui io ho cercato di convincere l'assemblea ad abolire la schiavitù. E tremavo per il freddo. Per favore, se la conosci, diglielo. Il grugnito d'un maiale cominciò a trasformarsi in un urlo acuto, strozzato, altissimo, mentre gli conficcavano il coltello in gola. La povera bestia non voleva morire. La possente figura aprì l'inferriata, mentre chiudeva a chiave e mi lanciò un ultimo sguardo spietato. Gli gridai: Aspetta, il mio nome è... Arricciò la bocca. Lo conosco. E sparì. Il grido del maiale era sempre più alto, disperato. Mi teppai gli orecchi con le mani. Atene si apprestava a una notte di festa. Io mi sentivo distrutta. Il mondo, tutto il mio povero mondo crollava. E l'arciere conosceva il mio nome. No, il mio mondo non era povero. Marpessa, Iperide, le creature che amavo, anche Emone e Unai. Unai. La mia mano corse al petto. Il flauto. Il flauto. Non me l'avevano strappato. Tutti quei volti mi avrebbero tenuto compagnia nelle viscere dell'aureo. Antinoe, mamma, dammi un po' della tua forza. Ormai del sole restavano solo rimasugli in un cielo di fuoco che non bruciava più. La sera inghiottiva tutto. Le colonne del Partenone, le urla gelide del maiale scannato.